un caloroso benvenuto a tutti e specialmente alla vacca Tommasa, la mucca che canta, che dopo il suo successo internazionale ha deciso di ritornare qui, in Italia per la sua tournée estiva. E vai Tommasa! Chiquitita en la escuela concursaba para ser artista con vestuario de rayas, de rayas. Con cinto y un disfraz descanta la vaca despistada. Wow, oh, oh. Cantando con Tomasa, wow, oh, oh. Y su blusa de rayas. Wow, oh, oh. Bailando con Tomasa. Ser gordita también ella bailaba y en miles en